Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Come abbiamo fatto a non accorgerci che il figlio che abbiamo cresciuto per 6 anni è il figlio di qualcun altro? Come sarebbe un errore? Non è possibile. Davvero Caetano non è nostro figlio? È un vero e proprio shock. Per il futuro dei vostri figli, lo scambio sarebbe la soluzione migliore. Sta succedendo tutto talmente in fretta. Ogni giorno che passa, il loro figlio somiglierà di più a te. E Keita somiglierà sempre di più a lui. Si può davvero amare un figlio che non è il tuo? Certo che si può. Paolo Festuccia, giornalista della Stampa, è il giornalista che ha trovato il caso. Pronto, Paolo? Buongiorno, Giovanni. Ecco, buongiorno a te, agli ospiti e ai radioascoltatori. Ecco, i due genitori di questo caso non parlano. Tu però li hai sentiti, credo, no? Guarda, io non li ho sentiti, nel senso che poi li hanno sentiti anche altri miei colleghi che nei giorni dopo si sono così cimentati nel caso, e diciamo che soprattutto hanno parlato con l'avvocato e hanno fatto bene a non parlare con la stampa. È giusto che i giornali conservino fuori da questa, sì, dalla dimensione così dello scandalo, dell'errore. Ecco, ma sai qualcosa di come esattamente cosa è accaduto quel 4 dicembre, giorno in cui la coppia si è sottoposta alla fecondazione assistita? Allora, esattamente il 4 dicembre è accaduto questo, e diciamo queste sono le notizie che oggi arrivano attraverso il lavoro, sì, degli ispettori del Ministero, che nel transfer, cioè nel momento in cui gli embrioni vengono presi da questo incubatore e trasferiti nella donna, lì c'è stato uno scambio di provette, e lo scambio di provette pare che sia scaturito da una sciatteria nello scrivere i nomi in corsivo a penna sulle provette, che erano, diciamo, quasi similari al punto da poter essere confusi. Cioè, due nomi della persona simili sono stati confusi e attribuiti a una donna invece che a un'altra. Esattamente. Ma non c'è la controfirma della donna? No, questo è accaduto, diciamo, la controfirma, diciamo, l'etichettatura, così si chiama in gergo, è avvenuta invece al Sant'Anna, dove la donna si è rivolta per fare l'esame genetico. Allora, lì si segue una procedura che viene tutto etichettato, e quindi la donna controfirma tutte le provette, e quindi è difficile poter sbagliare. Ma questa cosa nasce dal fatto che qualche fonte autorevole nei giorni scorsi, nelle ultime ore, aveva messo in dubbio il referto dello stesso. Ecco, ma Paolo Festuccia, ma se l'embrione che la signora porta in grembo non è il suo dove è finito? Ecco, Giovanni, tu apri uno scenario, diciamo, noi finora abbiamo parlato di un errore sul tavolo, diciamo, per così dire, operatorio, e è la situazione più, diciamo così, meno pessimistica. La situazione invece più drammatica, che potrebbe anche accadere, è che una donna, prima di sottoporsi a questo tipo di trattamento, diciamo, la coppia fa dei prelievi entro le 72 ore precedenti. Sì. Allora lì, nelle 72 ore precedenti a quel tipo di intervento, non si sono sottoposte ai prelievi solo 4 coppie, ma potrebbero essere tantissime, e cioè sono quelle che poi nella sostanza si sono sottoposte ai prelievi in quella settimana di dicembre, cioè dal 1 all'8 dicembre. Quindi lì potrebbe accadere di tutto. 800 24 00 24, il numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Quindi, ma tutto questo si sapeva già da tempo o è venuto fuori per caso? Com'è? Ecco, Giovanni, qui apriamo uno scenario un po' più difficile da poter chiarire, perché sul piano scientifico probabilmente questa cosa si potrà anche chiarire, e ci vorranno dei tempi, e questo lo seguiremo. Il problema vero è perché, ad esempio, dal 27 marzo, quando la donna, attraverso il suo avvocato, ha fatto presente l'errore agli organi preposti, non si è accaduto nulla, e cioè questa cosa, a distanza dal 27 marzo, oggi sono passate quasi 4 settimane, e invece si è venuta agli onori della cronaca proprio perché è uscita sul mio giornale. Certo, perché tu hai trovato la notizia, avevi la fonte che ti ha dato la notizia. Si sarebbe quindi passata sotto silenzio. Questo probabilmente sì, perché non, insomma, i tempi sono quelli. Ma e quindi non erano state neanche avvertite le altre presunte possibili coppie che quella mattina erano state coinvolte. E si sa quante possono essere? Guarda, se, ti dicevo Giovanni, se l'errore è avvenuto la mattina del 4 dicembre e si tratta di uno scambio tra una coppia e l'altra, è limitato a due casi e quindi questo potrà... Bisognerà solo capire l'embrione della coppia che ora è incinta, è un po' complicato come lo dico, in quale altra pancia sia finito. Pare che quella mattina un'altra coppia abbia abortito, potrebbe essere quello, punto interrogativo. Oppure, insomma, si trova a capire quest'altro embrione dove è andato. Ma se invece il nodo, te l'ho detto, il vero giallo è accaduto al momento dei prelievi, è lì, non si sa ancora quante sono le coppie. E quindi la possibilità che siano tanti casi esiste tuttora? Certo, perché se un embrione sbagliato va in una donna e quindi anche l'altro della donna va in un altro e l'altro ancora può andare in un altro, insomma potrebbe essere una reazione a catena che per l'amor del cielo speriamo che non sia accaduto. Speriamo che non sia accaduto, vabbè, seguiremo questo caso. E tutto questo vorremmo puntualizzare perché le procedure sono rigidissime, ma diciamo l'errore umano può sempre accadere, questo non lo sappiamo in tutti i casi, però esiste uno strumento che si chiama witness, il testimone, che in realtà fa sì che l'errore su queste robe sia pari a zero e purtroppo non è attivato, non si capisce perché non ci sia un investimento in tal senso nel settore sanitario, insomma troppe cose ci sarebbero da chiarire. Ma però il reparto di riproduzione di sterilità del Pertini segue delle procedure credo rigidissime, no? Quello del centro, come quello del Centro Nazionale dei Trapianti. Sì. Allora questo come... Cioè... Ma guarda, ci ho sempre detto Giovanni, l'errore umano è sempre dietro l'angolo. E poiché esiste la tecnologia, passatemi il termine, che può evitare nel 99,9% periodico anche gli errori umani, sarebbe opportuno che questa tecnologia fosse applicata e ai quindi manca questo investimento. Esatto. Va bene, seguiremo questo caso. Grazie. 800 24 00 24 il numero verde, SMS 349 238 6666. Una domanda che vorrei farvi, Mario e Pietrangelo. Ma quello che è accaduto a questa signora, poi cresciuti i figli, bisogna dirglielo ai figli una cosa del genere? Com'è andata? Ti dico cosa farei io. Questo mi interessa. Non esiste una regola. Cosa ovviamente. Non farei? Non glielo direi. No, perché penso che scatenerei l'istinto a cercare poi il padre e la madre naturale. Tu Pietrangelo? Questo è un caso diverso dall'adozione. Diverso. È un caso perfino opposto. È un caso che perché riguarda... c'è una scelta c'è una scelta almeno dei genitori. C'è una scelta, certo. C'è comunque un innesto, ecco, che si aiuta a meccanismi che forse difficilmente possono essere contemplati nell'ambito del sentimento. Detto ciò, la verità è sempre la strada maestra, ma a volte la verità necessita di pudore. E poi però vale sempre un principio, che nell'allevare cresce l'amore. E quindi quella regola salva tutto. Noi siamo pronti nell'arco di un mese con i ministri competenti a andare in Consiglio dei Ministri e approvare uno schema di disegno di legge delega. Oggi è il 12 d'aprile. Ci diamo un mese di tempo. Noi da qui al 12 maggio, non vi sto dicendo da qui al 12, metto anche l'anno perché sennò non ci credete, 12 maggio 2014, noi siamo pronti a offrire alla vostra attenzione un disegno di legge delega che voi discutiate. Vita ci faccia un bel lavoro di forum, le varie associazioni litighino su questo e nell'arco di un tempo che ci diamo alla fine di maggio siamo in grado di presentare un disegno di legge alla Camera dei Deputati o al Senato, decideremo dove e in che forme, e iniziamo la discussione. Riccardo Bonaccina, Renzi si è impegnato, l'abbiamo sentito, a fare la proposta del decreto legge delega per la riforma del terzo settore. Era un obiettivo del Festival del Volontariato? Ma l'obiettivo sì, è di mettere mani a una legge che è stata fatta nel corso degli anni, più o meno dal 91 ad oggi, un po' a silos, quindi diciamo riconoscendo pezzi di terzo settore di volta in volta, facendo insomma un po' fare una cosa complessiva che riordini il settore, questo è il punto. Sì, esattamente. Mi sembra che la sua idea non facciamo un po' di manutenzione, un pezzettino. No, facciamo una cosa che mette tutto insieme. Perfetto. Va bene, speriamo che questo poi abbia un iter veloce. La promessa di un fondo di 500 milioni di euro entro giugno è un passo concreto utile? Sì, perché diciamo la novità è che questo governo, poi vediamo alla prova dei fatti, esatto, la prova dei fatti, per la prima volta non dice più che bravi questi del terzo settore, diamo la medaglia, investiamo. Investiamo su questo settore, 500 milioni non sono noccioline. Si comincia. Allora, ma serve solo un'iniezione di soldi per il terzo settore oppure, a parte la legge di riordino, c'è dell'altro? No, l'altro tema è che mi sembra sia emerso chiaramente nell'incontro con Renzi è diciamo che questo è un personaggio che ha presente che lo Stato non è tutto, che forse bisogna ricominciare dalla società. Certo, questo è anche la tradizione toscana, lo aiuta a capire bene l'importanza. Ecco, come si possono migliorare, per esempio, le regole delle donazioni a no profit? Come si potrebbe fare? Cosa aiuterebbe? La cosa che abbiamo chiesto è che almeno... sapete che è stata fatta la nuova legge finanziamento ai partiti, insomma la fine dei rimborsi elettorali, e i partiti in brevissimo tempo si sono dati qualche vantaggio, nel senso che oggi se si dona un partito c'è una detrazione del 26% fino a 30.000 euro, se si dona una non profit per esempio c'è una detrazione sempre del 26% ma fino a 2.000 euro. E quindi diciamo... bisognerebbe elevare la soglia. Ecco, questo almeno appunto. Fare una cosa ecco, paritaria. Negli Stati Uniti invece si può togliere tutto, no? Si può detrarre assolutamente tutto. Negli Stati Uniti sì, se un'azienda dona il suo profitto a una non profit, al momento attuale è deducibile il 100%. Obama, devo dire, vuole un po'... scendere, però sta parlando del 60%. Vabbè, insomma, già sarebbe molto. Certo. Ecco, il terzo settore è composto da 4,7 milioni di volontari. Si parla di 300.000 società che occupano 900.000 lavoratori per un valore di 67 miliardi di euro. L'impresa sociale e il no profit possono essere davvero il combustibile per far ripartire l'Italia? Io direi di sì, perché sono energie sociali che stanno nei territori e poi, come anche l'Europa, devo dire, da ormai 2 anni sta dicendo, questo è un settore che crea occupazione anche nella crisi. Certo. Basta pensare alle cooperative sociali, appunto alle organizzazioni non profit. Ecco. Sono l'unico settore, dice l'Istat, che in questi anni ha creato nuova occupazione. Ecco, a proposito di cooperative sociali, voglio farle ascoltare la storia di una piccola storia, ma molto significativa, vicino a Napoli. Peppe Pagano, uno dei soci fondatori di NCO. Come siete riusciti a partire da una cucina e arrivare a un complesso di cooperative? È una necessità. L'idea che i camorristi si organizzavano per delinquere e organizzare il male di una comunità era quella di fare rete tra le organizzazioni e le persone per bene del posto. Ecco, quando avete avuto questa idea? Nel 2007, quando vicino a casa nostra arrestarono uno dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia, e noi ci chiedevamo come mai le persone... Non se ne erano accorte. Uno non se ne era accorto. Come era possibile che le persone davano ospitalità ai camorristi e semmai si preoccupavano che a fianco potesse stare una casa famiglia? Con quali soldi avete finanziato il vostro lavoro? Noi teniamo agricoltura sociale, quindi gestiamo il ristorante con una serie di attività, ma la nostra fortuna più grossa è quella di avere un sistema in campagna sperimentale voluto da noi, fortemente da noi, con i triestini e con le persone che con Basaglia hanno condiviso la chiusura del manicomio di Trieste, che si chiama Budget di Salute. Quante persone con disabilità psichica lavorano con voi? Nel consorzio più di 30. Renzi ha annunciato che ci sarà un fondo per l'impresa sociale di 500 milioni di euro. È un passo importante per il terzo settore? Quello che ci interessa più di tutti è che crei la possibilità che le banche ci possano finanziare invece di respingere qualsiasi tipo di formula di investimento della cooperazione. Perché le banche non rispondono. Tranne Banca Etica e poche altre, ci sono garanzie mastodontiche che le imprese sociali non possono fornire. E questo ci crea un problema non da poco. Quali sono gli ostacoli più difficili da superare per chi opera nel mondo del no profit, a parte non avere facilmente credito? L'incapacità della politica di avere una visione di sviluppo di questo mondo. Ma aspettate anche voi, come molte piccole e medie imprese, pagamenti della pubblica amministrazione? Questo è il paradosso più grosso, perché noi teniamo ritardi della pubblica amministrazione intorno ai 2 anni. Ai 2 anni? Sì. E come sopravvivete? No, ma non si sopravvive, in realtà è il paradosso più grosso è proprio questo, perché all'impresa sociale se chiedi questo tipo di tempi significa che alla fine chi rimane i lupi, il lupo chi è? Chi non rispetta le regole. Certo. Vabbè, però voi resistete, quindi come fate? Noi resistiamo, non ci paghiamo lo stipendio. E invece cosa significa allora fare impresa come la vostra nella terra della camorra per resistere ai lupi, insomma? Ti faccio un'ipotesi per darti l'idea di quanto uno ha una prospettiva, no? Quando siamo partiti nel nostro ristorante è arrivato il presidente della regione che ci ha detto: voi come siete bravi, siete proprio bravi, ma come vi posso aiutare? Noi gli dicemmo: guardate, non ci servono soldi, ci servono delle condizioni minime per poter noi investire sul nostro territorio. Noi facciamo agricoltura sociale, ci serve un marchio di qualità che certifichi i prodotti, il terreno e l'acqua. È arrivato? Assolutamente no, abbiamo subito la terra dei fuochi. Da ragazzino, lei mi dicono, era un ragazzo di strada, sarebbe potuto facilmente entrare nella camorra, una malavita organizzata. Che cosa l'ha fermato? Una mamma un po' pazza, che nel senso che una delle cose che mi capitò di fare è di comprarmi una pistola, era a Salve, gli tagliai il tappo rosso, andai a casa e la feci vedere a mia mamma. Ha preso 2 schiaffi. E mi prese con la cintura e mi disse che non avrebbe mai permesso né a me di fare del male agli altri né agli altri di fare del male a me. E quindi dovevo semplicemente cambiare strada. 800 24 00 24 il numero verde. SMS 349-238-6666. Ecco Riccardo, questo è un piccolo esempio naturalmente di una storia molto, molto bella, molto significativa di speranza. Però questo problema dell'impresa sociale che passa il 50% del suo tempo a sopravvivere alla burocrazia è veramente un problema. È un problema enorme, anche i pagamenti alla pubblica amministrazione, esatto. Soprattutto al sud, sono... Pensa che dei 100 miliardi di cui si parla, poi saranno 70, 100, non si capisce bene, sono circa 24 miliardi quelli che l'amministrazione, pubblica amministrazione deve al terzo settore. E poi sì, la burocrazia è una rogna pazzesca, no? E questo lo sappiamo, speriamo che lì si faccia, come dire, davvero un impegno vero per accorciare, ho sentito che si vuole accorciare riducendo i costi delle forniture e accorciare i tempi dei pagamenti, no? Questa mi sembra certo. Che sia una strada. Ecco, ho letto che ci sono 100.000 domande per fare il servizio civile, ma lo Stato mette a disposizione solo 1.000 posti. Ma perché non si riescono a allocare tutte queste offerte di lavoro? Perché il tema è sempre quello delle risorse, no? Sempre il servizio quello. Civile come è concepito oggi, 12 mesi con una diaria di 430 euro a ragazzo, le spese assicurative, e lo Stato non riesce, non è riuscito in questi anni a mettere più di 150 milioni. E quindi pochissimo. Il tema, la campagna che stiamo facendo, diciamo Renzi, sindaco di Firenze, fu uno dei primi ad aderire, è quale dire, scriviamo una pagina nuova, facciamo una nuova legge, non è detto che debba durare 12 mesi, può durare da 6 a 12 mesi, certo. Si può dare invece di 430 euro 300. Però è assurdo che diciamo una popolazione, la platea tra i 18 e i 28 anni sono 6 milioni e 7, esatto. 42% non lavora, 3 milioni né studiano né lavorano, hai 100.000 ragazzi che si vogliono impegnare e gli dici che non si può. No, siete solo in 1.000 posti, beh certo assurdo. Esattamente. Ecco, ma chi fa impresa sociale quante tasse deve pagare? Chi fa impresa sociale paga le tasse di tutte le imprese con magari qualche rogna in più, tipo ci sono comparti del terzo settore che non possono scaricare l'IVA come l'associazione di volontariato o le associazioni del pronto soccorso, e poi c'è la detraibilità sulla donazione che ti dicevo prima. Ecco, diciamo, quello lì è il discorso, questi 480 milioni di euro di donazione che però quasi come il fondo di Renzi in realtà poi Se non ci sono quelle detrazioni, come per esempio in America, certo diventa difficile farlo. Esatto, se tu li incoraggi non puoi buttare via un'energia così importante che è quella della generosità degli italiani, no? Renzi vi ha chiesto di collaborare alla stesura della riforma. Qual è la direzione esatta che volete prendere? Ma intanto diciamo una cosa confortante è che lui ha dato una data, che la voglio ricordare così la condividiamo. Lui ha detto che per il 12 maggio presenta un testo di legge delega da sottoporre alla discussione del terzo settore, di chi è interessato, un mese di tempo per discutere e poi diciamo la politica, come diciamo dovrebbe sempre fare, piglierà le sue decisioni. Ecco, 800 24 00 24, per chi vuole intervenire sul tema, sms 349 238 66. Non sono naturalmente solo i singoli che si impegnano, ma anche aziende che provano a ridare al territorio in cui lavorano sostegno e servizi. Un esempio di responsabilità civile e sociale è l'azienda Lessi. Nicoletta Lessi, voi avete scelto di sostenere alcuni servizi che il comune di Omegna, nel caso specifico, aveva tagliato, di sostenerli col vostro progetto Buon Lavoro, la fabbrica per la città. Noi stavamo affrontando un momento di sovracapacità produttiva, avevamo un calo degli ordini e per contro però avevamo una buona disponibilità, una buona situazione economico-finanziaria che ci permetteva di pensare soluzioni diverse. E quindi non volevate licenziare, diciamo, sostanzialmente? Non volevamo fare cassa integrazione, abbiamo provato a vedere se c'era un'alternativa, non attivando la cassa integrazione, come si poteva utilizzare il tempo delle persone in modo utile. E voi quali risorse avete messo a disposizione? Dunque, noi abbiamo fatto la proposta di collaborare a tutti i 340 dipendenti della sede di Omegna e abbiamo avuto un'adesione straordinaria di oltre l'86%. 86%? Sì, accidenti, sì, tantissimo. Assolutamente volontaria. Quante ore a disposizione della comunità? In totale circa 10.000 ore di lavoro. Per fare cosa? Una prima parte è stata dedicata alla risistemazione di una scuola, quindi la ritinteggiatura di circa 3.000 metri quadri della scuola elementare. Un altro gruppo di persone ha fatto invece quello che chiamavamo cittadinanza attiva, cioè la pulizia dei lungolaghi, delle aree verdi. Ecco, dottoressa Lessi, voi avete messo anche in piedi un laboratorio di artigianato per disabili. Sta andando bene? L'ha messo in piedi il Consorzio dei Servizi Sociali del territorio, che ha la competenza per farlo. Quello che abbiamo fatto è stato mettere a disposizione uno spazio all'interno del perimetro dell'azienda per poter realizzare questa cosa in un ambito che fosse effettivamente lavorativo, quindi in cui i disabili potessero sperimentarsi con un ambiente di lavoro vero. Ma è qualcuno di quelli lo assumerete, i migliori? Guardi, in questo momento non lo so, diciamo che il nostro impegno ad oggi è quello di mantenere la produzione e le persone che abbiamo, ed è già una bella sfida, ma non è niente. Ancora una cosa, questo progetto ha delle ricadute positive sull'azienda? Assolutamente, noi non l'avremmo fatto altrimenti, non la consideriamo beneficenza, investimento, un investimento importante che ha avuto in primo luogo uno straordinario ritorno in termini di clima interno, di partecipazione delle persone, di senso di appartenenza, e questa è la vera ragione per cui è stato fatto. E quindi certamente c'è anche un tema di immagine, di comunicazione, per l'amor di Dio, ma è secondario. Una bella esperienza il rapporto fra azienda e territorio. Federico da Cagliari. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo portare una piccola testimonianza di come il terzo settore è continuamente vessato da tutta una serie di adempimenti burocratici. Da parte ne abbiamo della parlato, sì. E proprio delle esperienze dirette. Ci chiedono delle cose che loro stessi non hanno, quindi si perdono giorni di lavoro. Che cosa fai, Federico, tu cosa fai? Io sono un consulente e ci occupiamo proprio di assistere le aziende del terzo settore per quanto riguarda gli adempimenti cogenti verso le pubbliche amministrazioni. E quanti anni hai? Io ho 27 anni. Lo fai da molto questo lavoro? È un 5 anni già. Ci scontriamo ogni giorno con un apparato burocratico che è veramente incredibile. E questo è il problema, infatti. Sì. Va bene, grazie. Testimonianza che si aggiunge a tante altre sul dramma del rapporto con la pubblica amministrazione e pubblicità. Mix 24. Quando lui per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo, quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare. Ah, un po' di allegria, Pietrangelo, dolcezza. È un'allegria che costruisce poi immagini, sogni, e però è anche un modo di immaginare un'Italia diversa. Ci pensi? C'era un'Italia che riusciva a creare atmosfere come questa. Metti una sera a cena, Florinda Bolca che canta. Era un mondo tutto bello. Tutto bello. Ma tu pensa adesso, ma tu pensa adesso che lagne, che rogne, cioè l'unica estetica che conosco vuoi qual è? Fabio Volo. Ma va, vedi come ti cerca, va. Allora, queste bolle oggi, Mario, fai bollire. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 448. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Qui. Il Gattopardo, Tomasi di Lampedusa. Nomine. Presidenti, amministratori delegati, consiglieri. Insomma, ieri sono arrivate le prime nomine di Renzi. Donne alla presidenza, maschietti alla guida. Si poteva fare di meglio? Sì, forse, però si poteva fare anche di peggio, diciamoci la verità. Insomma, forse siamo un po' il paese di Tomasi di Lampedusa, no? Tutto sì. Cambia, niente cambia. Vabbè, alla però fine. Bisogna vedere almeno un pochino l'aspetto positivo. Sì, c'è, ma c'è, uno c'è. Sforzo di cambiamento c'è e bisogna darne atto. Perfino un'altra donna, ci siamo dimenticati, sta alla presidenza della RAI. Quindi cinque. C'era già. Tu Pietrangelo, scusa, cosa stai dicendo? All'arte lui col telefono. Sempre. No, che no, fai? No, che no, sono sul pezzo. No. Voi state parlando perché? Di nomine. Ah. Siccome ci sono quelli che vogliono essere sempre primi al traguardo della sostanza, sono deliziato nel seguire sul profilo di Gianni Riotta, quello originale, non suo fake, non Ricotta, che dice: in bocca al lupo Zingales, Chicago Boys nel CDA Eni, in bocca al lupo Emma Marcegaglia, Luisa Todini, donne manager al vertice Eni Poste, e Francesco Caio, uomo di mail. Uno di mail che va alle Poste. Quindi ora scriverà lettere, non farà più mail. Poi in bocca al lupo Roberto Rao, CDA Poste, in bocca al lupo Marta Dassù, Aledi Nicola, CDA Finmeccanica. Insomma, si è complimentato con tutti. È una persona educata. E tu con chi ti complimenti? Con nessuno. Vabbè, sentiamo con chi si complimenta la Tardelli, la nostra quota rosa. Is it 'cause I'm cool? Why you dress like me? Is it honesty? Are you just a fool? Is it 'cause I'm cool? E che siamo cool. Questa canzone è un omaggio ovvio, no? Evidente alle presidenti donne di Poste, Enel, Eni e anche del nuovo CDA di Finmeccanica. Siamo un po' ovunque, però esultando, perché oggi sono contenta, chissà che riusciremo un po' a comandare prima o poi, mi viene in mente quello che diceva sempre Miriam Mafai: ragazze, non abbassate la guardia, le nostre conquiste sono troppo recenti. E io sono d'accordo. Infatti, pochi giorni fa in uno studio televisivo si parlava del Napoli, ovviamente Napoli calcio, Pepita, squadra. Pepita Higuain. E il conduttore, per zittire la giornalista al suo fianco, le rinfaccia di essere la fidanzata del secondo di Mazzarri, che ormai è all'Inter, e per questo non poteva parlare. Sentite che galantuomo. Io riesco a parlare obiettivamente di entrambi i Napoli. Ma è così, il tuo fidanzato, ma non c'entra Mazzarri, nulla. Se io faccio una professione, ma se non questo è possibile. Il mio lavoro, io non so puoi dare essere professionale se parliamo di Mazzarri. Non sono d'accordo, mi dispiace, Walter. Vabbè, ti dissoci. Se tu e Yolanda la porta sta là, puoi anche andare via, se non sei d'accordo. Pierangelo, alzavi il dito. Non ho capito che vuol dire quella parola cool. Ma sai, noi quote rosa di oggi siamo bilingue, trilingue, quindi così ci dilettiamo a saltare da una lingua all'altra. Ma tu lo sai che lui pensa sempre, no? Che quella non è pupo, non è bolle, bolle. Grande Bob, grande, bellissima canzone, Could You Be Love. Ti piace Pietrangelo? No, io... No. Già no, i peperoni no. mi fanno male, figura di tossicomani. No, ma dai, è un po' rasta. Allora, cibo. È un po' rasta. La, un po' rasta. È carino. Un po' rasta. Era un po' rasta. Sono un po' tossico. Era un grande artista. Allora, cibo. Molti pensano che i prezzi alti delle materie prime in agricoltura siano un danno enorme per i poveri e per i paesi poveri. In realtà, no. Nel lungo e anche nel breve periodo, perché i paesi poveri hanno un'economia prevalentemente agricola. Dunque, quando salgono i prezzi delle materie prime, salgono anche i prezzi, anzi, meglio dire, le paghe dei lavoratori. Per cui, per esempio, c'è il caso del Bangladesh, analizzato nel 2007-2008, è molto interessante, anche nelle zone rurali aumentava la paga dei lavoratori, per cui tutti, no? Ci sono dei luoghi comuni. Diciamo, all'origine la mediazione magari sale. Sì, però, cioè, noi guardiamo con gli occhi degli occidentali alcuni fenomeni, in realtà ci sono molti luoghi comuni anche nell'economia. Stamattina leggevo questo documento molto interessante. Salamini. Il ministro Maria Elena Boschi ha recitato in uno spot elettorale un filmato assai piritollo a favore di Antonio De Caro, candidato a succedere il magnifico, meraviglioso Michele Emiliano, quindi candidato a diventare sindaco di Bari. Ora, costretti a recitare i due, perfino Maria Elena Boschi, che è così soave, risulta goffa. Vincerai, dice lei a lui, che molto fine, seduto a gambe larghe, con le mani già pronte. Lui dice: non costringermi a fare qui scongiuri. Allora i due poi rottamano un po' qui, un po' lì, poi arrivano al proposito, che è quello di fare spuntino, di andare a mangiare focacce. Allora lui chiede: ma come dici tu la parola focaccia? Allora lei si esibisce in un barese dove dice: andiamocene a mangiare le focacce. A questo punto io, che sono un fan di Michele Emiliano, grido, e con me gridano, immagino, tutti i baresi: ridateci le cozze pelose. Cioè, è il famoso carico di cozze pelose. Bolle. Prepararsi alla velocità luce. No, la velocità luce è troppo lenta. La velocità luce è troppo lenta. Sì, dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata. Velocità smodata? Signore, non siamo mai andati così veloci. Non so se la nave potrà sostenere. Qual è il problema, colonnello Nunziatella Cacarella? Balle spaziali era questo. Balle spaziali. Vabbè, voglio dire, stavamo nel tema. E se stanno a inventare il razzo riciclabile, Minoli, SpaceX, che è un'iniziativa privata di voli spaziali, dentro c'è Elon Musk, che è quello che ha fondato Tesla. È uno che ci capisce di futuro. Molto bravo, molto bravo. Insomma, lanceranno un razzo che per la prima volta potrebbe essere riutilizzato. Stanno studiando una tecnica di soft landing, cioè di atterraggio morbido, vuol dire buttafuoco. Grazie. Ecco, allora, il razzo, per dare un'idea dei numeri e di che cosa significherebbe riuscire a usare nuovamente il razzo. Un razzo costa 54 milioni di dollari. Il carburante ne costa 200 mila di dollari. Ora, capite che cosa vuol dire se si riesce a usare di nuovo il razzo? Accidenti. Più viaggi spaziali per tutti. Per tutti. Vabbè, colonizzeremo lo spazio finalmente. Salamini. Deborah con l'H. Con l'H, Deborah con l'H Angrisani, la ragazza dell'immagine diventata simbolo degli scontri di sabato a Roma, quella travolta dalla carica della polizia, è stata intervistata da Repubblica e ha fatto sapere un fatto: che lei stava lì per protestare per la casa, per il reddito, per la dignità, cose tutte giustissime. Dopodiché però noi lettori abbiamo scoperto una notizia, e cioè che la ragazza studia, ha 22 anni, quindi immaginiamo deve essere già fuori corso perché la sua laurea è triennale, e studia scienze per la pace. Ora dico io, se esiste. Cerchi il reddito esiste. E la casa, come fai a cercarlo, questo reddito e questa casa, con la laurea per la pace? Ci sarà un modo? Beh, cercherà di fare la carriera da Boldrini. Giusto. Potrebbe essere. Però ho visto la dichiarazione dei redditi, insomma, non è che fosse granché. Però fa la presidente. Oggi, nella seconda ora, racconteremo la storia di Edoardo Agnelli e la sua fine, il suo suicidio. Il racconto sarà chiuso da un'intervista di Marina Milone con Yash Gavronsky che rivela un aspetto sorprendente del rapporto tra padre e figlio. In che cosa è cambiato l'avvocato dopo la morte di Edoardo? Ma direi che non è cambiato molto. Lui non era certo uno che faceva trasparire i suoi sentimenti, lo considerava come una cosa poco elegante. Direi che certamente spero, penso che abbia avuto un senso di colpa per quanto è successo. E poi anche forse un leggerissimo, nel grandissimo dolore, anche un certo senso di sollievo, perché certamente la sparizione di Edoardo gli aveva evitato un problema che avrebbe continuato per tutta la sua vita. Cioè lui vedeva in Edoardo, più che oltre che un figlio, anche un problema permanente. Beh, certo, una dichiarazione forte. Pietrangelo, è arrivato il momento del canzoniere. Nella battaglia di Solferino comandava un plotone come sottotenente di fanteria. Da una mezz'ora era in corso il combattimento. Tre passi dinanzi a sé vedeva le schiene bianche dei suoi soldati. La prima fila del plotone stava in ginocchio, la seconda in piedi. Tutti erano sereni e sicuri della vittoria. Mix 24. Non può mancare. Vabbè, tutti i giorni, per carità. Tutti in piedi, siamo a casa. Vabbè, questo l'ultima bolla. È il coro dell'Armata Rossa. Senti? Meraviglioso. Allora, Pietrangelo, sei emozionato? Hai la lacrimuccia? Sì, no, però ora, ormai ha vinto, non c'è problema. Considera sempre che ho nel cuore l'inno imperiale. Sì, lo so, però vabbè, io sono comunista e voglio questo. Allora, Mario, non diciamo sciocchezze. Allora, Ucraina, tutto fermo, o meglio, situazione perfetta per Putin. Poco fa Kiev ha chiesto di aprire una trattativa con i separatisti filorussi, Lavrov ha detto che va benissimo. Io vi dico solo questo: chi paga la rivoluzione? Perché qua c'è un punto interrogativo e nessuno risponde. La moneta è crollata, la moneta locale, c'è stato un aumento dei tassi, non è servito a niente, ha perso, mi pare, un terzo del suo valore, il calo più alto tra le 169 valute monitorate da Bloomberg. Chi paga? Lo sapremo quando? La prossima puntata? Intanto che aspettiamo di sapere se c'è qualche vincitore del canzoniere, professor Doglio, di cosa parliamo oggi? Buongiorno. Oggi parliamo di House of Cards, il castello di carta. Bene, aspetti, intanto c'è Francesco da Salerno, ne abbiamo già parlato. C'è Francesco da Salerno. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Chi è? Mi dice la risposta? La risposta è La marcia di Radetzky. Perfetto. L'autore. L'autore è Roth. Giusto, Feltrinelli. Volevo dire una cosa. Io ho un segreto, faccio prima, è la seconda volta che rispondo. Faccio prima perché non guardo su Google. Ah, bravo! Bravissimo. professore, grazie. Professor Doglio, allora stavamo dicendo... Allora, so che ne avete già parlato con Simonelli, sì, è ovvio, perché è stato un evento importante, però è un evento che, al di là della qualità della serie, si presta anche a qualche considerazione proprio in materia di economia dei media. Sì. Per quello volevo parlare. Dica. Beh, intanto perché è il primo prodotto originale di quella fabbrica di innovazione con cui dovremmo abituarci a avere a che fare, che è Netflix. Certo. Abbiamo già parlato. Sì, ma ne parleremo molte volte. Perché hanno degli approcci molto interessanti, che in Italia però per il momento si fa rappresentare dal prodotto su Sky Atlantic, mentre in altri paesi europei sta entrando, e questa è la vera novità. La cosa però molto interessante è il modo in cui scelgono di investire tanti soldi su una serie così, senza passare per lo schema classico delle majors. Ecco perché? Perché lei sa benissimo che le majors lavorano con i pilot, sì, no? Certo. Prima di investire grandi budget spendano bei soldi per fare il pilot, una o più puntate, sì, pilota, le sottopongono al pubblico televisivo e decidono in base ai risultati quantitativi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a sempre più insuccessi nonostante questo sistema, questo di meccanismo, che vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Certo. Netflix invece decide in base a un'analisi di microdati a partire dai suoi attuali 44 milioni di abbonati. E cioè cosa fa? Di cui conosce tutto, non solo le abitudini di ascolto, ma tutta una maglia complessa di informazioni, diciamo di tipo psicografico, chi sono, che gusti hanno, che età, che disponibilità di spesa, che consumi, che modalità di consumo hanno, grazie a un motore di ricerca che è in grado di collegare i profili degli abbonati a qualcosa come 76.000 diversi tipi di generi e di cioè? Metterli in un meccanismo che decide cosa commissionare. Cioè quindi è un algoritmo che ci dice quale sarà la star del serial? Beh, tenendo conto che è un mucchio di dati, perché sì, gli abbonati guardano qualcosa come 2 miliardi di ore di programmi al mese, in questo modo loro riescono a scegliere tutti gli ingredienti di un programma. È così che hanno scelto di utilizzare come base per House of Cards il format originale BBC del 1990, che hanno scelto di sviluppare la storia in 26 puntate, che hanno scelto persino Kevin Spacey come protagonista e David Fincher come regista, perché in qualche modo corrispondevano a dei trend che si potevano leggere dall'analisi. Però sono analisi sempre del passato, diciamo, è difficile essere proiettivi. Beh, è difficile essere proiettivi, ma se lei ha una macchina che le consente di tenere sotto controllo mensilmente quello che è, diciamo, le consente di identificare popolazioni di abbonati e la loro capacità di gravitare intorno a certe aree di genere, le permette di fissare le soglie dimensionali al di sopra delle quali può valer la pena di rischiare. Vabbè, Fellini non avrebbe mai fatto i suoi film con questo metodo. Siamo in una nuova situazione. Faccio una piccola osservazione. D'altra parte, lei capisce che siccome loro hanno un tasso di investimento che è nell'ordine dei 3 miliardi all'anno... Certo, vanno sul sicuro, devono andare sul sicuro. È giusto. Il 10% lo spendono in produzione originale. No, naturale. Devono cercare di trovare una soluzione. No, ma è interessante. Matematica, diciamo. Ecco, la soluzione matematica però applicata al di là della privacy abbastanza violata, diciamo così, è applicata anche a tutto ciò che già si è pensato, ai gusti già consolidati, incrociati fra di loro, quello che la gente ha visto, ha fatto, non quello che vorrebbe per forza. Se quella è la base di riferimento, è possibile anche innovare. Vabbè, infatti io penso che la creatività poi ha anche un suo percorso. No, negativo no. Perché è uno di quei casi in cui quantità può voler dire qualità. Va bene, speriamo che questo sia un pezzo del futuro. Naturalmente. Ecco, grazie professore. Oggi per la storia, l'abbiamo detto prima, c'è una puntata dedicata a Edoardo Agnelli di Alberto D'Onofrio e Alessandro Ugolini. Edoardo Agnelli, che era figlio unico maschio dell'avvocato, un figlio tormentato, fragile, un rapporto molto difficile con il padre, una storia che si conclude in modo drammatico con un suicidio il 15 novembre del 2000. Marina Milone ha intervistato per commentare la puntata un grande amico dell'avvocato Agnelli, Yash Gavronsky.